校生、应届毕业生和具有北京市户籍高中毕业以上文化程度的适龄青年均可报名。歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道每天十点、22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎来到歌舞剧场。我是你的朋友古月，今天和您分享的是意大利作曲家卡塔拉尼创作的歌剧《拉瓦利》，由台湾尔迪、摩纳克、卡布奇利等演唱，吉莱瓦指挥蒙特卡罗歌剧院演出。 siete voi, del cielo avete fatto paura. Io la rimasi fino a sera, quando un tratto l'avemma disparve. Me ne uscì, era già notte, allor decisi di tornare. Un uomo scendeva lento il sentier dell'ave. Date va, forse! In persona! Oh, rimasto per stanotte non ha nulla a temer domani la partirò Come la Come on. Thank you.